La cultura, non dimentichiamo neppure questo settore. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, ma sono anche sospese tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche. Noi quindi non possiamo più permetterci in queste aree aggregazioni di persone. Scuola chiude, biblioteca, niente biblioteca, niente cinema. Poco triste, poco triste. Io resto a casa. Voci di chi non ha casa. Cittadini e cittadine senza dimora raccontano come hanno vissuto il lockdown a Trento. Capitolo 4. Un uomo non vive di speranza. Quanto è piccolo l'uomo, come la Terra nella galassia, o la galassia nell'universo, ospite in natura, inquina l'aria che respira, poi si nasconde nella scatola. L'omino deve equilibrarsi, è troppo piccolo per credersi re. Il virus così piccolo, invisibile, ci ha messi un po' a disagio, abbastanza a disagio, anche se troppo piccolo, ma ha avuto questa potenza di metterci un po' nella scatola, nella nostra scatola, e cioè la casa, di chiudersi in casa, e che comunque noi non possiamo credersi il re dell'universo, nemmeno della Terra. La maggior parte di queste poesie le ho scritte durante la chiusura totale, cioè durante il lockdown. Io ho cominciato a scrivere in un primo momento, tanto per sfogarmi un po' sulla carta. E man mano che passava il tempo diventavano sempre di più, quindi alla fine ho fatto una raccolta di poesie, la maggior parte d'amore, un po' di sofferenza, e insomma ho usufruito di questo momento assai pesante, ma comunque superabile. E io mi chiamo Banche Ismael Zaki, di lavoro faccio il musicista. Beh, diciamo che sono più nel stile contemporaneo, perché io sono sai com'è? Stile contemporaneo è urban, nel senso trap, queste cose del genere, trap, rap. Quando dici di essere un musicista, ti richiedono ancora che lavoro fai. Quindi non penso che bisogna avere pregiudizi su delle persone che fanno un lavoro che amano, perché penso che la musica, essere musicista, essere musicista è rispettabile, perché è un lavoro che vale come tutti gli altri, insomma. Quindi bisogna rispettare ogni lavoro, ecco. Questo, diciamo, capitolo del Covid diciamo 19, che è veramente una cosa straziante, perché penso che è stato un momento molto difficile per tante persone, perché tante persone dipendono dal sociale per vivere. I barista, come si dice, quelli che si occupano della ristorazione, capisci, eccetera, eccetera. Quindi è un discorso, anche noi musicisti, quindi non possiamo fare concerti, non possiamo fare esibizioni, chissà fino a quando. Io non faccio più, non suono più, e sono rimasto a un punto di non ritorno, e io spero solo che io sto vivendo solo nella speranza. Un uomo non vive di speranza, un uomo vive di fatti, e questo è il problema. E speriamo di finire con questo incubo, perché è un incubo che la gente vive veramente sulla pelle. Valanga di solitudine piomba all'improvviso, ansia intensa, brusca. Il fuoco arde ancor più. Abbandono me stesso e mi consegno al vuoto, che poi vuoto non è, sol che turbamento. Sembro una chimera con le teste sfumate sotto il cuscino per distrarre il vuoto che sbriciola l'anima a poco a poco. Qui parliamo un po' del vuoto che alcune persone fortunatamente, non tutti e non tanti, spesso sentono in loro stesso questo senso di vuoto e questo disagio, non so se si può chiamare disagio, ma e cercano di far sapere agli altri magari che c'è questo vuoto dentro di loro, e cercano di trovare una spalla, un qualcuno, un qualcosa che li aiuti. Certamente è una situazione, un momento non facile, specialmente quando non si trova nessuno per darle una spinta e per tirarle fuori dal vuoto e dall'abisso in cui sono finiti. Noi dobbiamo imparare anche dalle disgrazie, dagli sbagli, dalle cose brutte che succedono, e quindi di riflettere e di rendersi migliori. Tante generazioni non sanno cosa significa una pandemia o una roba del genere, quindi è una cosa nuova ai nostri occhi. Ma sono cose, allora, cose del genere sono cose che sono successe anche tanti anni fa, tantissimi anni fa, ma che sono state superate. Quindi se sono state superate all'epoca, perché oggi no? Quindi è un periodo che è un po' difficile, però bisogna essere un po' ottimisti, anche se il pessimismo sta, diciamo, prendendo terreno, insomma. Ma senz'altro finirà. Purtroppo ci ha portati via delle persone, anche conoscenti, a qualcuno un amico, a qualcuno magari i genitori, ha fatto danni, però ne usciremo, questo è sicuro.